Se prendiamo posto, io direi di cominciare. Naturalmente ringrazio ovviamente i nostri ospiti, Raul Mordenti, coordinatore del libro, che tra l'altro il centro documentazione ha in vendita, Filippo Mazzone dell'Istituto Storico della Resistenza e Storia Moderna di Pistoia, Aldo Bartoli, presidente dell'AMPI, che poi questa iniziativa nasce grazie alla decisione del Comitato Provinciale di Pistoia di AMPI insieme al Centro Documentazione di appunto presentare questo libro, e poi abbiamo il rappresentante del Coordinamento Difesa Costituzione, Baicchi, e a proposito volevo ricordare che abbiamo chi ce l'ha autentica, abbiamo il consigliere Francesco che ci autentica le firme, ma raccogliamo le firme sulla proposta di legge dell'autonomia differenziata. Doveva, come dire, introdurre e un po' coordinare la Lucia Innocenti, che è qui, ma ha detto, mi ha obbligato a riprendere questo coso in mano come ultimo servizio per il centro di documentazione, visto che abbiamo rinnovato i nostri organi a giugno, e quindi Giorgio non è più presidente, io non sto più insomma nel ruolo che avevo prima, Lorenzo si diverte più a fare le fotografie, che è il nuovo presidente, che pensavo che coordinasse lui, introducesse lui. Perché presentiamo questo libro? È molto semplice, perché sono tempi gravi ed è assolutamente necessario riprendere il filo della riflessione, magari anche dell'azione, su fascismo e antifascismo. E quindi la pubblicazione di questo libro, che è di 2 mesi fa, a cura del Dipartimento Nazionale Antifascismo di Rifondazione Comunista, ci dà l'occasione per ragionare intorno a un tema che quelli più giovani di me, cioè la larga maggioranza della gente che è in questa sala, insomma, fortunatamente ha conosciuto meno pesantemente di quelli che dalla mia età o anche un po' prima, quindi gli anni, hanno conosciuto negli anni 70 e ancora prima negli anni 60, eccetera. Io non voglio farla lunga, vorrei dare subito la parola al presidente dell'AMPI, Aldo Bartoli, che fa l'introduzione, poi interviene Filippo Mazzoni, Francesco Baicchi e poi il professor Raul Mordenti.